13. GR24, il sole 24 ore. Nessuna alternativa senza di me. Berlusconi alla Camera parla ai suoi e all'opposizione. Sono spariti. Tutti sull'Aventino tranne i radicali che restano in aula, fuori dal gruppo, dice Bersani. Napolitano a Genova con i lavoratori di Fincantieri chiede il rilancio, l'Italia torni a fare politica industriale. Sara Scazzi, il processo resta a Taranto, la Cassazione ribalta la decisione. Buongiorno dalla redazione, buongiorno da Anna Migliorati. 20 minuti per lanciare messaggi ai suoi e all'opposizione. Vado avanti, senza di me non c'è alternativa, ha detto sostanzialmente Silvio Berlusconi in aula alla Camera, annunciando che riproporrà il documento del rendiconto generale dello Stato. La votazione sulla fiducia al governo avrà inizio domani alle 12.30. Le dichiarazioni di voto parlamentare partiranno dalle 11. Ma dicevamo, intanto quello di oggi è stato un discorso con un messaggio ben chiaro. Allora cominciamo a riassumere le parole del Premier con Elisabetta Fiorito. Sì, buongiorno. Il Premier Silvio Berlusconi è stato accolto subito da un applauso della maggioranza, unica presente in aula per chiedere la fiducia. Mi scuso con quanto è successo sul rendiconto dello Stato che il governo presenterà di nuovo in un unico articolo. Ma nessun passo indietro, così il Presidente del Consiglio. A chi ci chiede di fare un passo indietro rispondiamo chiaramente che mai, come in questo momento, sentiamo la responsabilità di non accondiscendere a questa richiesta, nella convinzione che oggi questo governo non abbia alternative credibili e che le elezioni anticipate non sarebbero una soluzione per i problemi che abbiamo. Solo il nostro governo può affrontare la crisi, questa è la tesi di Berlusconi, e chiediamo che sia confermata la fiducia, fiducia poi chiesta dallo stesso Berlusconi prima della fine della seduta e che verrà votata domani, la seduta partirà alle 11. Ma se dovesse essere sfiduciato, il Premier indica solo una strada. Il Parlamento controlla, legifera, dà e toglie apertamente la fiducia politica, ma quando una maggioranza e il suo leader la perdono, la parola deve ritornare agli elettori. Non mancano gli sbadigli di Umberto Bossi, 12, ma soprattutto manca l'opposizione. Solo i radicali presenti, asserragliati nella parte alta dell'aula, tutta la metà dell'emiciclo vuota, e Berlusconi si permette una battuta. Perché le opposizioni esercitano un legittimo diritto, dovere di critica, ma sono oggi frastagliate e divise, anzi sono addirittura sparite. E concentrano su chi vi parla una campagna demolitoria, ma non hanno né un esecutivo di ricambio né un programma definito. Un discorso durato 23 minuti in cui il Premier ha anche riconosciuto il ruolo del Quirinale su una vigilanza che Berlusconi definisce impeccabile e senza interventi politici. E per il momento da Montecitorio è tutto a voi studio. Grazie ad Elisabetta Fiorito. Aggiungiamo che in questi minuti invece è in corso nella sala del governo della Camera un incontro tra il Premier Silvio Berlusconi ed il Ministro dell'Economia Giulio Tremonti. Prima del discorso in aula questa mattina c'è stato il Consiglio dei Ministri, subito dopo un altro colloquio tra Bossi e Tremonti che ha preceduto l'ingresso alla Camera di Berlusconi. Poi i due hanno reagito in maniera diversa. Dicevamo, da Berlusconi un messaggio ai suoi e un messaggio all'opposizione. Allora cominciamo da Bossi e Tremonti. Alessandra Schepisi. Sì, buongiorno. Ben 20 minuti di colloquio tra il leader del Carroccio e il Ministro dell'Economia, dopo i due si sono trattenuti nel cortile di Montecitorio a conversare prima di fare il loro ingresso in aula. Al termine dell'intervento del Premier, Bossi ha poi stretto la mano, Berlusconi si è allontanato, ha rilasciato anche una dichiarazione ai giornalisti dicendo che domani il governo ci uno sguardo con il Presidente del Consiglio, due però come si è detto sono a colloquio proprio in questi minuti a Montecitorio. Quanto al Consiglio dei Ministri, c'è da dire che si è concluso con un nulla di fatto, rinviati l'approvazione del DDL stabilità sia quella del nuovo rendiconto generale, se ne occuperà di entrambi i provvedimenti il Consiglio dei Ministri che verrà convocato domani pomeriggio dopo il voto di fiducia. Una riunione è quella di oggi dove non sono mancate le tensioni tra Tremonti e Romani, i nodi sono i tagli lineari ai ministeri inadempienti che colpirebbero in particolare quello di Romani, e poi la mancata destinazione delle risorse incassate dall'asta per le frequenze che non sarebbero più alle telecomunicazioni. Qualche problema con Alessandra Schepisi, dicevamo due reazioni diverse tra Berlusconi e Bossi, il colloquio poi tra Berlusconi e Tremonti in corso, cercheremo di capire come sarà finito, ma dicevamo in aula non c'era l'opposizione che però ha commentato il discorso, domani ci sarà per votare, le reazioni le ha raccolte per noi Vincenzo Biglietta, cominciamo a sentire cosa ha detto Bersani. Il vuoto del Parlamento è risultato corrispondente al vuoto delle parole di Berlusconi, parole penose che non hanno risposto in nessun modo al quesito che ha posto il Capo dello Stato. Come fai ad andare avanti al di là dei voti di fiducia? Come fai a garantire l'operatività del governo? Che cosa ci dici di nuovo? È venuto fuori qualcosa? No, assolutamente niente. Abbiamo sentito Bersani, altro commento, quello di Italo Bocchino, sentiamolo. Ci troviamo di fronte ad una maggioranza che non riesce a tenere i numeri e soprattutto di fronte ad un governo che non è più in grado di governare. La sua litania dicendo le solite cose con un discorso trito e ritrito è apparso molto noiosa, come ha dimostrato anche Bossi con i suoi numerosi sbadigli in diretta televisiva. E noi riteniamo che sia giunto il momento di un passo indietro di Berlusconi, come gli viene chiesto anche dall'interno del PDL, ma lui vuole solo una fiducia numerica per arrivare a mangiare il panettone e poi a gennaio staccare la spina e gestire lui la campagna elettorale da Presidente del Consiglio e andare al voto tra marzo ed aprile. Vincenzo Biglietta, dunque così i commenti, opposizione quasi tutta unita. Sì, è così, metà emiciclo vuoto in segno di protesta, un segnale preciso da parte dell'opposizione di dissociazione dall'operato di questo governo, sia per l'episodio del rendiconto dello Stato, sia per l'immobilismo dell'esecutivo contro la crisi economica, denunciano PD, Italia dei Valori, UDC, Futuro Libertà ed API, lo abbiamo ascoltato, un discorso penoso secondo Bersani, non si può più andare avanti con una maggioranza che lavora in Parlamento ai limiti delle versioni, dice Di Pietro, il governo aggiunge il leader del l'Italia dei Valori di fatto non esiste più e Berlusconi dimostra solo che vuole sfuggire alle sue responsabilità giudiziarie. Di Berlusconi è come un disco rotto. Parlano invece dall'UDC, polemica tutta interna invece al Partito Democratico per la presenza in aula della pattuglia dei radicali, siamo rimasti per rispetto delle istituzioni, spiega la Bernardini, si sono autosospesi, vadano per la loro strada, la replica di Bersani. E da Roma è tutto. Grazie Vincenzo Miglietta, un'aula semivuota dicevamo, ma una protesta che ricorda altri periodi. Un atto di protesta che molti si sono affrettati a battezzare come un nuovo Aventino, richiamando un episodio di fascista memoria. Il 26 giugno 1924 un gruppo di parlamentari d'opposizione si riuniva in una saletta di Montecitorio, poi ribattezzata Sala dell'Aventino, abbandonando i lavori parlamentari finché il governo non avesse chiarito la propria posizione a proposito della scomparsa di Giacomo Matteotti. Il leader antifascista verrà trovato morto nell'agosto di quello stesso anno. Eppure il paragone con l'opposizione antifascista sembra azzardato, come ricorda il giornalista Emanuele Macaluso. Secondo me non è un paragone calzante, perché nel 24, dopo il delitto Matteotti, l'opposizione andò sull'Aventino e non tornò in aula. L'opposizione di oggi ha deciso che domani partecipa all'attività parlamentare e voterà. Mi pare che tutto il contesto è diverso. Ricordo benissimo che ci sono state, durante per esempio l'approvazione della legge truffa, quando si votò nel 1953 al Senato, furono divelte le tavolette dei banchi dei parlamentari. Gesti che hanno costellato la storia parlamentare italiana con esiti diversi. Il significato dell'Aventino anni 2000, però, è ancora tutto da scrivere. Barbara D'Amico, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E io saluto Dino Pesole, buongiorno. Buongiorno Anna. Basterà questo segnale al Quirinale? Cominciamo da qui. E allora, secondo me Berlusconi ha risposto a metà oggi a quello che gli ha chiesto Napolitano ieri. Napolitano ieri gli ha chiesto due cose. La prima, di assumersi lui la responsabilità diretta di chiarire come uscire da questo pasticcio determinato dal voto negativo sul rendiconto dello Stato. E in questo senso Berlusconi ha dato garanzie, poiché domani il Consiglio dei Ministri si riunirà per un nuovo testo. E d'altro canto non può che essere così, essendo un atto dovuto. Dall'altra parte invece Napolitano aveva fatto un discorso dal chiaro intento politico istituzionale, cioè sostanzialmente ha detto a Berlusconi che non basta più la 51esima fiducia, ci vuole qualcos'altro, perché non è solo in campo una maggioranza numerica, ma la capacità del governo di governare. Di fare qualcosa. Certo. Da questo punto di vista non mi sembra che stiano emersi segnali di novità oggi. Secondo te ci saranno i numeri domani, ma soprattutto dopo domani? Allora, è probabile che domani i numeri ci siano, anche se qui è difficile scommettere, perché l'aria che tirava oggi alla Camera non era propriamente rassicurante, però poi magari alla fine quei voti, quella manciata di voti in più il governo ce l'avrà. Il problema è politico ed è di fondo e probabilmente si tratterà semplicemente di un rinvio, perché credo che ormai l'esperienza dicevamo di perché governo, il problema è che i numeri ci siano domani ma anche dopodomani, cioè su provvedimenti concreti. Esatto, quindi un nuovo incidente potrà esserci, ma oltre a questo ci chiediamo un po' tutti quali provvedimenti questo governo potrà decidere, cioè qui è in ballo il destino del paese, cioè si tratta di mettere in campo misure per la crescita, non si scherza, quindi occorre un governo vero che governi e faccia le cose, esattamente quello che ha chiesto Napolitano. Grazie a Dino Pesole. Quello che ha chiesto Napolitano è quello che si aspettano i mercati. Allora sentiamo come si stanno ancora reagendo le borse. Deborah Rosciani. Sì, buongiorno. Abbiamo un calo oggi piuttosto forte fra i listini del vecchio continente, che erano partiti male e poi hanno tentato di migliorare la loro seduta, e adesso invece il calo prosegue ed è particolarmente marcato proprio a Milano, che sta perdendo il 2%. Su Milano pesa come sempre l'andamento delle banche, che oggi sono tutte quante in calo. Tornano a scendere anche i titoli Fiat in maniera molto forte. Oggi scende molto anche il titolo Enel, meno 3%, perché l'amministratore delegato Conti in un'intervista ad un giornale ha fatto capire che potrebbe essere rivisitata la politica dei dividendi del gruppo. UniCredit invece perde il 4% dopo la folle corsa del titolo degli ultimi giorni. Per il gruppo si profilerebbe l'aumento di capitale, ma in realtà per molte banche, come sapete, questo è chiesto in prospettiva europea. Peraltro è arrivata poco fa la trimestrale di JP Morgan. Dagli Stati Uniti sta riprendendo la stagione dei conti. In America JP Morgan ha riportato conti migliori delle attese secondo le prime interpretazioni degli analisti. Mercato obbligazionario: stamattina il Tesoro italiano ha collocato titoli di Stato a 5 anni per 3,5 miliardi. Il tasso medio è sceso rispetto all'ultima asta al 5,32%, però sul mercato secondario sta continuando a lievitare il tasso di rendimento del BTP decennale, che stamattina si è riportato al 5,80%. Anna. Grazie anche a Deborah Rosciani. Restano anche le proteste a Roma. Alcune tende sono piantate sulla scalinata del Palazzo delle Esposizioni, a qualche centinaio di metri da Banca Italia, dopo la protesta degli indignati di ieri. Sabato ci sarà la manifestazione nazionale e allora è andato per noi tra le tende dei manifestanti Francesco Marinelli. Siamo stanchi della politica di austerità in generale, non solo dei problemi economici ma anche dei problemi sociali. 15 ottobre comincia oggi in tutta Italia. Occupiamo Banca Italia, occupiamo Banca d'Italia! Ci sembra che indipendentemente dal disastro che rappresenta questo governo, i governi nazionali sono completamente ostaggio delle banche centrali, dei grandi istituti finanziari, delle agenzie di rating, di tutto un meccanismo che sta facendo pagare la crisi a chi non l'ha prodotta, a chi dovrebbe avere invece indietro qualcosa per tutto quello che ha pagato in questi anni. Per chiedere che a pagare il debito sia chi ha creato il debito, banche, banchieri, finanzieri. Per noi welfare significa appunto avere un futuro. Adesso di fronte a noi non c'è assolutamente il nulla, c'è il pericolo di una non vita fatta di precarietà totale in un contesto in cui le disuguaglianze aumentano adesso, aumenteranno in futuro. Saremo qua intanto per diventare migliaia, per diventare fino al 15 ottobre centinaia di migliaia e invadere le strade di Roma. Non si torna indietro! Le 13:19, le notizie di oggi. Nessuna alternativa senza di me. Berlusconi alla Camera parla ai suoi all'opposizione. Sono spariti, dice. Tutti sull'Aventino tranne i radicali che restano in aula, fuori dal gruppo del PD, dice Bersani. Domani alle 12:30 il voto di fiducia. Di questo abbiamo parlato fino ad ora nell'edizione di GR24. Proseguiamo andando a Genova, dove questa mattina, dicevamo, ad incontrare i lavoratori di Fincantieri è stato il presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. Prima in prefettura l'incontro con una delegazione di sindacalisti della Fincantieri, poi in strada con gli operai che lo attendevano da ore. Presidente, vediamo solo lavoro, presidente! Napolitano si è avvicinato alle transenne e ha detto: questo paese deve tornare ad una politica industriale come in passato. E a proposito del cantiere di Sestri Ponente ha aggiunto: so benissimo cosa significhi la cantieristica a Genova, condivido le vostre preoccupazioni, farò di tutto per aiutarvi. L'incontro con i lavoratori della Fincantieri era stato inserito all'ultimo nel programma della visita di Napolitano a Genova, dopo che ieri si era vissuta un'altra giornata di tensione e di blocchi stradali e ferroviari. Il segretario della FIOM CGIL di Genova, Francesco Grondona: è chiaro che, non è che ci aspettava che il presidente ci portasse in dote una nave, ha però assicurato l'impegno, per quanto in suo potere, di riferire con il ministero e con l'amministratore delegato per cercare di dare una risposta ai problemi che abbiamo posto. Successivamente Napolitano ha raggiunto il Palazzo della Meridiana, dove era stato invitato da tempo per partecipare ai lavori del simposio di COTEC, la Fondazione per l'Innovazione Tecnologica. Prima di entrare a Palazzo della Meridiana, Napolitano non ha voluto rilasciare dichiarazioni ai giornalisti. Andrea Ferro, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Genova. E voltiamo decisamente pagina, apriamo la pagina della cronaca col processo per l'omicidio di Sara Scazzi. Si terrà a Taranto, sua sede naturale, la Corte di Cassazione ha ribaltato così la decisione. La Corte di Cassazione ha respinto la richiesta di trasferimento ad altra sede del processo sul delitto di Avetrana. Il ricorso, che puntava a far spostare il processo da Taranto a Potenza, era stato presentato il 29 agosto scorso dai legali di Sabrina Misseri, accusata di concorso in omicidio volontario, sequestro di persone e soppressione di cadavere con la madre Cosima Serrano. I difensori di Sabrina Misseri avevano motivato la richiesta di spostare la sede del processo a causa dell'eccessiva pressione dei media che avrebbe potuto influenzare le decisioni dei giudici. Si è creato un clima ambientale che si riverbera sulla serenità del procedimento, aveva detto Franco Coppi, uno dei legali della cugina 23enne di Sara, che si trova in carcere dal 15 ottobre dello scorso anno. Il processo dunque continua a Taranto, dove domani riprende l'udienza preliminare fissata dal GUP. 13 gli imputati, mentre altri 3 indagati, accusati di false dichiarazioni al PM, dovranno attendere almeno l'esito del processo di primo grado per essere giudicati. Adriana Fracchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Il sisma che ha colpito questa mattina l'isola di Bali ha provocato decine di feriti, mentre i numerosi turisti presenti sull'isola, appena avvertita la scossa di magnitudo 6.2, si sono precipitati fuori dagli hotel. L'unità di crisi della Farnesina è in contatto con l'ambasciata d'Italia a Giacarta, che sta verificando l'eventuale presenza di italiani tra i feriti. In Libia arretrano invece le forze del Consiglio Nazionale di Transitorio Libico da Sirte, respinte dal fuoco degli ultimi miliziani fedeli al colonnello Gheddafi. Queste le notizie che arrivano in questi minuti. Abbiamo dovuto arretrare per, ha detto, hanno confermato i combattenti su una nuova linea del fronte. Questa mattina le forze rivoluzionarie avevano annunciato che i gheddafiani erano concentrati solo in 2 quartieri occidentali della città, poi la ritirata. Restiamo all'estero. Gilad Shalit, il soldato israeliano tenuto in ostaggio da 5 anni nella striscia di Gaza, tornerà in Israele martedì o mercoledì prossimo. Dalla striscia di Gaza all'Egitto attraverso il valico di Rafah, poi dall'Egitto a Israele e finalmente a casa. Così la prossima settimana rientrerà in patria il soldato Shalit, rapito a 19 anni da un comando palestinese alla frontiera tra Israele e la striscia di Gaza. Una delegazione di Hamas, guidata dal leader in esilio Khaled Meshal, è in queste ore al Cairo per rivedere l'accordo che porterà sia alla liberazione di Shalit, ma anche alla scarcerazione in 2 fasi di 1027 detenuti palestinesi, attualmente rinchiusi nelle prigioni israeliane. La Casa Bianca si congratula per la coraggiosa decisione israeliana, mentre il presidente francese Sarkozy riceve i ringraziamenti di quello israeliano Peres per il contributo della Francia all'accordo. Il plauso internazionale però non fa presa sulle famiglie israeliane vittime del terrorismo palestinese. Abbiamo combattuto contro questo accordo per 5 anni, denunciano. È una resa a un'organizzazione terroristica con tanto di liberazione dei suoi killer. Laura Bettini, Radio 24 e Sole 24 Ore. In caso di cancellazione del volo, i passeggeri possono chiedere un risarcimento per il danno morale subito, oltre alla compensazione dovuta per il danno materiale, lo ha stabilito oggi la Corte di Giustizia Europea. I passeggeri potranno chiedere il risarcimento, dicono i giudici europei, anche nel caso in cui l'aereo sia decollato e poi costretto a rientrare all'aeroporto di partenza. Le 13:25 minuti, il momento della nostra rubrica sull'evasione fiscale. Il paese sommerso. Il paese sommerso. Storie di ordinaria evasione fiscale. 20.000 segnalazioni, 30 milioni di maggiori imposte recuperate che arrivano a 60 comprendendo le sanzioni. La collaborazione fra comuni e Agenzia delle Entrate sta dando i suoi primi frutti e noi siamo i primi a raccontarvelo. Il meccanismo è virtuoso perché questi soldi, dopo la manovra di Ferragosto, rientreranno totalmente nelle casse degli enti locali spioni. Carmelo Piancaldini dell'Agenzia delle Entrate. Consiste nella possibilità da parte del comune, dei funzionari dei comuni o anche della polizia municipale di effettuare degli approfondimenti delle attività di controllo che magari partono per effettuare controlli sui propri tributi, tributi di propria competenza, pensiamo all'ICI, pensiamo alla TARSU, si accorgono che emerge anche un possibile risvolto di evasione sui tributi di competenza nazionale, i tributi statali che possono essere imposte dirette, l'IVA, l'IRAP e così via. Questo fa emergere una segnalazione che il comune può fare all'Agenzia delle Entrate. Da qui scatta l'accertamento dell'Agenzia delle Entrate e poi, nel caso, arrivano le sanzioni. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Io portabandiera alle Olimpiadi rifiuterei, troppo faticoso. Federica Pellegrini torna a far discutere. Io sono una persona molto patriottica, per me sarebbe un onore infinito, però noi ci alleniamo quattro anni per fare questa Olimpiade. E comunque sì, anche se il giorno dopo non avessi gare dovrei stare 7 ore in piedi perché la sfilata dura mezza giornata, la sfilata delle Olimpiadi. E comunque 7 ore sulle gambe per noi non si recuperano in una giornata. Quindi comunque a malincuore se me lo proponessero purtroppo rifiuterei comunque. Federica Pellegrini, simbolo vincente dello sport italiano, dice no grazie al ruolo di portabandiera e subito si apre il dibattito. Un dibattito, temiamo, ben poco olimpico. Finché Petrucci risponde stizzito che portare la bandiera non è la via crucis, è legittimo perché il presidente del CONI ha tutti i diritti di farlo. Mentre temiamo con raccapriccio la carica dei grilli parlanti e dei politici nullafacenti. Il tema è ghiotto, più dei calciatori che non cantano l'inno di Mameli o degli oriundi che non sono degni della maglia azzurra. Inutile scandalizzarsi, gli uomini o le donne bandiera sono da tempo tramontate. Al loro posto vanno per la maggiore queste superstar, così glamour, così sensibili, al logorio che il loro ruolo invece imporrebbe. Presenti quando chiama lo sponsor, assenti quando bisogna portare bandiera. In queste cose, si diceva una volta, ci vuol fede, ma non evidentemente la Pellegrini. Dario Ceccarelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Le 13:28 minuti, finisce qui GR24, Roberto Scaltritti in regia, Danna Migliorati ancora una buona giornata, prossima edizione del giornale alle 14. GR24, Il Sole 24 Ore, direttore Fabio Tamburini.